Storielle. Storiacce. La profezia è nel libro della Rivelazione, 8:7. Omen, il presagio infernale. Dio le ha donato un figlio. Com'è bello. Come ci racconta uno che quel mondo lo conosce bene, Marco Dimitri, sono tantissime le persone che in Italia si avvicinano ai riti oscuri del satanismo. Lui anni fa mise in piedi la più famosa delle sette, quella dei bambini di Satana. 11 anni sono passati dal suo arresto insieme a quello di altri due membri, Pier Giorgio Bonora e Gennaro Luongo. Restarono in carcere per 400 giorni, accusati dal PM Lucia Musti, tra l'altro, di violenza su un bimbo di 3 anni che mostrava gravi disturbi. In 13 mesi di carcere le accuse proliferarono. Inizia il processo, su cui pesa soprattutto il giacuso di una super testimone, ma nel 1997 tutti gli esponenti dei Bambini di Satana vengono assolti perché il fatto non sussiste. 2 anni dopo una nuova testa rivolge loro altre accuse, ma non si presenterà mai in tribunale. Così nel 2000 la sentenza d'appello conferma l'assoluzione e 4 anni dopo arriva anche il risarcimento, nello sconcerto di chi aveva condotto l'inchiesta. Oggi fa il webmaster Dimitri, ma soprattutto del sito della sua associazione I Bambini di Satana, intorno a cui ruota ancora tutta la sua vita, fatto anche di riflessioni su personaggi che dice di non condividere, come Marilyn Manson. No, io non sono d'accordo con Marilyn Manson, nemmeno con un reverendo, quindi no, non mi interessa quello che dice Manson, anche perché secondo me Manson è una persona elaborata, poi ha preso un nome dall'assassino, dalla moglie di Polanski. È una figura che è stata costruita dalle case discografiche. Durante i processi si arrivarono anche a parlare di accuse come sacrifici umani, licantropia, occultamento di cadavere. L'accusa era che una ragazza, amica della super testimone, mi ha baciato e dopo che mi baciava si trasformava in Luco Mannaro. No, questa era l'accusa. Che cosa ricorda dei giorni, diciamo, clou dell'indagine, di quando fu arrestato, ad esempio? Sì, lo shock dell'arresto, quello me lo ricordo, perché sei lì che fai, è un giorno qualsiasi della tua vita, magari, e ti vedi preso, portato via, sai, se fai qualcosa, magari ti aspetti qualcosa, però se non hai fatto niente è traumatizzante. Anni dopo, considerando quanto altro è venuto fuori anche in altri tipi di vicende, appunto come quella di Varese che citavamo prima, c'è mai stato un momento in cui ha pensato di aver avvicinato, sia pur inconsapevolmente, a questo tipo di cultura altre persone? Penso di sì, sicuramente. Chiaramente può essere che delle persone delle persone che magari si avvicinano e li poni davanti a un aspetto culturale, poi il giorno dopo li vedi, che sono andati a spaccare un cimitero, è chiaro che dà fastidio. Ecco, ma lei non ha mai pensato di avere avuto anche inconsapevolmente una responsabilità in tutto questo? No, perché l'elemento detonante lo trovano dappertutto, se vengono da me lo trovano da me, però sono persone che potenzialmente devono esplodere o da una parte o dall'altra. Un qualche effetto forse anche suggestivo per chi pensa di avvicinarsi a questo tipo di ambiente, non pensa che possa averlo avuto il precedente del suo gruppo dei Bambini di Satana? No, secondo me lo trovano proprio, sono proprio così. È un autista pazzo che si mette in una macchina senza saper guidare, quindi dovunque va prima o poi va a sbattere. Ma non pensa che questo tipo di messaggio può arrivare anche a persone casomai più giovani, con dei problemi, che possono portare a forme di estremizzazione e quindi arrivare anche agli orrori che abbiamo visto nell'inchiesta delle bestie di Satana? Non c'è mai stato una forma di mea culpa in qualcosa? No, perché almeno i messaggi che sono partiti da qua non sono messaggi violenti. Dire che l'uomo è la misura di tutte le cose non è un messaggio violento. Viviamo in un mondo dove ti infilano gli aerei dentro le case. tutti si sono ricordati dopo la scoperta degli orrori delle bestie di Satana, e a lui, ci confida, si sono rivolti più genitori di ragazzi scomparsi, convinti che nel buco nero del satanismo finisca chiunque faccia perdere le sue tracce. Qualcuno ha chiamato in causa i bambini di Satana anche per l'omicidio di Cogne. Così, anche se volesse, ci dice Marco Dimitri, la sua vita è comunque indissolubilmente legata a quell'associazione dei bambini di Satana e soprattutto al caso giudiziario. No, non si chiude mai, quello è il problema. Come nacque l'idea di una setta dei bambini di Satana? Cercavo delle risposte alle domande che tutti si fanno, che tutti si pongono, penso. Quanti anni aveva quando cominciò a pensare all'idea di mettere insieme questo gruppo? 14-15. Quando decideste di formalizzare queste vostre ricerche in una vera e propria associazione? Nell'82. Come avvenivano i primi incontri e dove? No, sempre da me, a casa mia. Dopodiché, ecco, all'inizio quanti eravate? Una decina. Tutti più o meno amici? Sì, tutti più o meno coetanei, tutti più o meno amici. Poi dopo le cose sono cambiate e abbiamo cominciato ad essere conosciuti. Da 10 quanti eravate diventati nel momento, diciamo, di massima espansione? Avevamo superato il migliaio. Oltre... di tutta Italia, non parlo di Bologna, se no di tutta Italia. Si spostava nelle città, quello è ovvio. Quindi, oltre a Bologna, quali erano le altre città dove vi vedevate con maggiore assiduità? Più o meno a Bologna e Roma. Si dice che Torino sia la città delle messe nere. Sì, ma questo perché a Torino c'erano due esponenti della Church of Satan di LaVey, quella californiana. Voi non avete mai avuto contatto anche con altri gruppi non italiani? Sì, il Tempio di Set, di Aquino, Michael Aquino, adesso non mi ricordo bene. Erano della Church of Satan californiana che poi hanno creato varie branche. Vi hanno mai proposto messe nere? No, anche perché la messa nera non è contemplata dal culto satanista. Dimitri, lei ha mai avuto telefonate di genitori, di ragazzi che casomai erano preoccupati per i propri figli e si rivolgevano a lei pensando che potessero avvicinarsi alla sua associazione? No, però ho avuto la telefonata di un genitore che dice: sparita mia figlia, io l'ho sentito in televisione che dicono che quando spariscono vanno nelle sette. Cioè, quindi quando c'erano delle persone che sparivano, chiamavano lei per chiedere se ne sapesse qualcosa? Anche per la Fronzoni hanno chiamato noi. Diceva che è una setta satanica addirittura, che aveva ucciso questo piccolo bambino. Lei pensa che alcune forme del satanismo possano diventare pericolose? Sì, perché ci sono anche persone che hanno dei problemi, e penso che Satana sia una fonte di richiamo per delle persone che vogliono trovare il lasciapassare per uccidere, ad esempio. Una persona non ucciderebbe mai un altro, però se dice Satana che lo possiede, allora sì. Che cosa lei suggerirebbe per evitare derive del satanismo? Beh, un controllo più accurato sia da parte della procura, però deve essere di un organo serio. E lei sa quante sette sataniche ci sono in Italia? Penso che, a parte i microgruppi che possono essere una decina, gruppi piccoli che nascono e muoiono in un giorno, parla di almeno tre movimenti, tipo la Chiesa Luciferiana, tipo gli esponenti del Certo Satan, tipo noi. Quante persone, secondo lei, sono vicine a queste sette? Forse un po' meno di 1000 persone. Un migliaio di persone, e queste associazioni, che lei sappia, sono più presenti nel nord o nel sud d'Italia? C'è qualche regione dove sono più? Da Roma in su. Lei conserva ancora i contatti anche con le altre associazioni? Con qualche associazione, sì. Lei ha mai pensato di aver commesso degli errori? Sempre. Tipo, mi metto una muta da sub e vado sott'acqua, sì, invece che di fare satanista. contribuito a diffondere e di sicuro a pubblicizzare le sette sataniche, eppure ora, un po' per scherzo, un po' no, come a voler tirare le fila della sua vita, dice che piuttosto avrebbe preferito fare il sub, ma in realtà, come lui per primo racconta, conserva sempre i contatti con alcuni gruppi satanisti. Resta quindi ancora oggi un punto di riferimento per i tanti bambini di Satana sparsi per il paese.